Vi sono riflessioni in merito al matrimonio che a certi sposi non interessano più, e quando questo succede è perché in fondo quel tipo di rapporto non interessa, o non hanno più speranza che si possa risolvere una relazione ormai cessata da anni. Se, per esempio, si parla di problemi sessuali in merito alla coppia, è normale che due sposini di fresco siano più interessati di chi ormai da anni, per ragioni di età o altro, non esercita più la sessualità. L'interesse per un argomento C è solo se vi si trova una ragione utilmente valida, ma il soggetto concernente come salvare il proprio matrimonio è sempre valido, perché il pericolo che un rapporto di coppia si sfasci è sempre presente, anche nelle unioni più affiatate. Ricette per salvare un matrimonio o per tenere un matrimonio unito ce ne sono a iosa e, tra queste, se ne possono scegliere 10. 1. Se si vuole salvare proprio il matrimonio, occorre saper ridere insieme. Quello che rovina molte coppie è la troppa sacralità del rapporto. Ogni parola e ogni gesto vengono pesati con troppa severità, mentre non ci si comporta così con gli amici. Un buon rapporto di coppia è quando si passa sopra a piccoli errori o debolezze del partner, come del resto si fa con le altre persone. Inoltre, occorre saper ridere assieme delle situazioni della vita e sapere creare occasioni per avere momenti gioiosi. Quando si osservano due innamorati, il più delle volte si vedono ridere anche per delle stupidaggini, perché questo non dovrebbe succedere in un matrimonio. 2. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre suscitare nel partner il desiderio di tornare a casa. Ho presente un amico che molte volte mi viene a trovare dopo il lavoro e, quando chiacchieriamo, sembra che abbia sempre tante cose da dire. Eppure, il suo interminabile parlare non è altro che il suo desiderio di non tornare a casa, perché con sua moglie non vi è nessuna relazione interessante. È sposato e rimane sposato perché la sua cultura glielo impone. Ma egli fa parte di quei migliaia di divorzi silenziosi che urlano ai quattro venti. Per salvare un matrimonio occorre rendere il partner a casa propria, a suo agio, e quando questo comincia a bere troppo, andare a letto presto da solo o aspetta che l'altro si addormenti, sono sintomi rivelatori. Se il vostro partner non desidera tornare a casa C, è una ragione così grave che invalida la ragione per la quale vi siete sposati. Nessuno si sposa per stare da solo. E se così anche fosse, una sfida per suscitare in lui il desiderio di tornare a casa. 3. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre cercare di avere cose in comune. Quando ci si sposa, questo aspetto lo si mette per ultimo nella lista delle ragioni per un matrimonio riuscito, perché si pensa che automaticamente tutte le cose riescano da sole, ma poi con il passare del tempo ci si rende conto, meno e a volte con orrore, che le differenze di carattere si rimarcano sempre più, portando ad una lenta e inesorabile separazione di convivenza, cioè di vita assieme. Quando ci si rende conto di questo, è saggio creare come coppia nuove conoscenze che siano comuni a tutte e due, o trovare un interesse reciproco. Spesso ci vuole del tempo, ma quando interessa che il rapporto duri fino alla morte, vale la pena impegnarsi per imparare a trovare comuni obiettivi e amicizie, perché senza una vita condivisa è in atto un processo di distacco. 4. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre dare importanza alla vita sessuale. Per quanto se ne parli e per quanto se ne dica, poche coppie curano anche l'aspetto del rapporto sessuale. Sembra che in genere la donna sia contenta che il marito la lasci stare e il marito sia contento che la moglie non si interessi della sua sessualità. Così il marito può avere tranquillamente un'altra donna e la moglie può farsi un amante senza problemi. Una coppia saggia si controllerà a vicenda per quanto riguardano le necessità sessuali, perché, a meno che non vi siano malattie o altre anomalie, una normale coppia ha normali rapporti sessuali costanti. E vero che le pulsioni sessuali non sono sempre le stesse, ma una coppia affiatata parlerà serenamente e apertamente anche della propria vita sessuale. 5. se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre curare il proprio aspetto davanti al partner. Quando si è fidanzati, la prima cosa alla quale si pensa è avere un aspetto fisico attraente ad ogni appuntamento. Le ragazze molto volentieri a volte passano tempi interminabili per farsi l'ultimo ritocco e i ragazzi cercano sempre di avere il vestito migliore. E questo è normale, perché si cerca sempre di piacere e di conquistare. Ma non è normale quando in un matrimonio ci si trascura e non si ricerca di piacere al proprio partner. Sembra che una volta sposati non ci sia niente più da conquistare, ma questo è un errore che a volte si paga col tradimento da parte dell'altro coniuge. Farsi graziose per le donne o tenersi in forma per gli uomini non sono solo atti per piacere al partner, ma anche un atto di quell'amore che deve cementare il matrimonio. 6. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre affrontare i problemi. Affrontare le difficoltà che sorgono nel matrimonio non piace a nessuno. Si preferisce lasciare che le cose continuino come stanno andando, sia per comodità sia per non dover suscitare un vespaio. Ma se al momento sembra più conveniente un silenzio inopportuno, in seguito se ne portano le conseguenze. Ci sono problemi che a volte il partner non vuole risolvere, ma l'atto d'amore e l'interesse di mantenere il rapporto spingeranno di tanto in tanto il coniuge a riprovare per trovare il momento opportuno. Se il nostro umore e la nostra disponibilità cambiano, dobbiamo pensare che anche il nostro coniuge abbia la sua giornata, sì, e in quel giorno lanciare la conversazione su di un problema. Non serve a nulla dire in un momento di conflitto: ma anche tu mi hai detto o mi hai fatto, perché un umore alterato vizia anche i pensieri. 7. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre chiedere come migliorare il rapporto. Non serve solo affrontare i problemi, ma dopo averli affrontati, chiedere al coniuge come sia possibile migliorare il matrimonio. Tutti partiamo nel giorno delle nozze con dei principi e delle aspettative, ma poi lungo il percorso il più delle volte i principi non si sa come applicarli e le aspettative vengono deluse. Perciò occorre anche accettare che di fronte a nuove situazioni ci sia un certo adattamento, e questo è possibile solo se chi vive con noi espone le sue vedute. 8. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre essere pieni di attenzione. Quando si è fidanzati, è spontaneo essere pieni di attenzione perché si vuole piacere e conquistare. Perciò, questo atteggiamento dovrebbe essere il principio base per ogni matrimonio. Se alla moglie piace essere ricordato il giorno del matrimonio o il suo compleanno, il marito non deve trascurare tali date. Mentre se al marito piace una gita romantica, la moglie deve fare tutto il possibile per accontentarlo. Questo principio ribalta completamente la nostra natura egoistica di esserci sposati per essere felici, mentre il matrimonio deve essere prima di tutto un passo per fare felice l'altra persona. Se questo fosse l'obiettivo di ogni partner, non si penserebbe alla separazione e tantomeno al divorzio. Una delle ragioni fondamentali dei divorzi è quella di non trovare nel partner una ragione di appagamento. Ma se l'appagamento fosse nel cercare di fare felice il coniuge, si salverebbe qualsiasi matrimonio. 9. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre essere riconoscenti. La riconoscenza è una pianta rara nel giardino del matrimonio, perché solo i rancori, le amarezze e le delusioni sono le erbacce che crescono spontaneamente e abbondantemente. Potranno esserci nel matrimonio tante ragioni per convivere fino a che noia non separi, ma ci sono anche tante e tante ragioni per essere riconoscenti. Che una moglie accudisca il marito non è affatto un merito, perché non ha fatto altro che compiere quello che era in obbligo di fare, come del resto. Il marito non fa nulla di più se provvede alla famiglia il necessario per vivere decorosamente, ma essere riconoscenti con un bacio, con una buona parola, con un incoraggiamento, proprio quando non è merito, è un'efficace scintilla in un rapporto di coppia. Se poi questo rapporto è da anni secco, a volte una scintilla di riconoscenza è in grado di accendere un grande fuoco di un rinnovato interesse e anche un ricambiato slancio d'amore. Pochi conoscono la grande ed efficace medicina della riconoscenza perché pochi la praticano. Se la riconoscenza non dovesse anche produrre nulla nel partner, essa produce comunque del bene in chi la pratica perché, oltre che mutare in positivo sentimenti negativi, diventa il collante che salva il matrimonio. 10. Se si vuole salvare il proprio matrimonio, occorre desiderare salvarlo. Questa sembra una conclusione semplicistica, ma molti matrimoni vanno a rotoli perché in fondo non vi è veramente il desiderio di convivere con il proprio partner. Se si desidera veramente stare con la persona che si è sposata, se si desidera parlare con chi si è unito in matrimonio, se si desidera fare sesso solo con il proprio partner, se si vuole fare del bene con chi si è scelto per tutta la vita, allora, e solo allora, si desidera salvare il proprio matrimonio e si fa tutto ciò che è possibile per non arrivare ad una separazione e tantomeno al divorzio. Pochi hanno compreso che il matrimonio non si salva una volta per sempre. Per salvare un matrimonio occorre molta perseveranza nel volerlo salvare, al punto che si può dire che se si arriva ad una rottura o a un divorzio, il più delle volte è perché non ci è stata una vera perseveranza. Se si vuole salvare il matrimonio, occorre avere del continuo il desiderio di volerlo salvare, e quando si ha il desiderio di salvare il proprio matrimonio, di fatto il matrimonio è già salvato. Dicembre 2006. Ellero,